fossi io, viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Nicoletti, buongiorno. Volevo consolarla e terrorizzarla al tempo stesso. Ha appena detto che a 60 anni si vedrà girare col catetere. Beh, io ho 60 anni, ancora si può andare tranquillamente zompettando per strada, e lei si ritrova ad avere ammiratrici di 60 anni. Ho sentito che lei ha 55 anni e pensa ai suoi 60 anni è così come un fatto tragico, probabilmente starà con il catetere, con il bastone, con le cose. Io le posso assicurare che ho 68 anni e non sono in quella situazione tragica che lei ha descritto. Calcoli che dopo i 50 anni, tra 55, 60, 70, non c'è poi tanta differenza, Si consoli. Mi consolo, mi preoccupo in realtà. Beh, io devo dire che mi trovo affascinato da questa reattività cateterica delle mie ascoltatrici, alle quali oggi voglio fare però un bel regalo. Io comincerò a dedicare il più possibile, non sempre sarà possibile, ma quando sarà possibile lo renderò impossibile, il venerdì della fuga dal mondo. Io, chi mi segue da tempo sa quanto sia affascinato nella ricerca delle fessure che si trovano quotidianamente nel percorso che ognuno di noi fa nelle consuetudini di ogni giorno per poter uscire dalla propria realtà. Le fughe dal mondo sono di vario tipo, ci sono delle fughe senza ritorno, ce ne sono delle fughe che invece da cui il ritorno è permesso, è possibile, anzi nessuno si accorge nemmeno che voi siate per un attimo fuggiti. Beh, nel venerdì dalle fughe dal mondo oggi dedicherò la mia giornata a una fuga molto particolare, qualcosa di lontano, qualcosa che non appartiene probabilmente alla cifra più visibile della nostra contemporaneità, però per una sorta di istintivo animalesco senso olfattivo mi sto rendendo conto che invece esiste, riappare, riemerge, è palpabile anche nelle pieghe nascoste appunto che noi incontriamo nel nostro quotidiano. È la fuga dal mondo che permette la fata verde. Un bicchiere d'assenzio. Non c'è niente di più poetico al mondo. Che differenza c'è tra un bicchiere di assenzio e un tramonto? Il primo stadio è quello del bevitore normale. Il secondo, quello in cui cominciate a vedere cose mostruose e crudeli. Ma se perseverate, arriverete al terzo livello, quello in cui vedete le cose che volete, cose strane e meravigliose. Oscar Wilde. Vi sembrerà singolare che io vi parli d'assenso. Per me è stata una scoperta. Io vi ho tartassato e martoriato i padiglioni auricolari per un paio d'anni sul Margarita, sui suoi effetti, sulla sua formula, sull'alchimia che compone questa bevanda, secondo me fantastica, per delle innocue e non offensive fughe domestiche. Oggi vi parlo dell'assenso, l'ho scoperto da poco, quindi con l'entusiasmo di chi fa una scoperta mi sono reso conto che questa bevanda, che sembrava appartenere soltanto a un memento letterario, a qualcosa che sa di Moulin Rouge, di vecchi bavosi che cercano di sedurre signore imbustate facendogli bere dei bicchierini, di questa bevanda verde che poi si diffonde come una nuvola bianca quando uno comincia goccia dopo goccia a mettere dell'acqua gelata che passa attraverso uno zuccherino. Voi pensate che esistono delle macchine complicatissime per bere l'assenzio, che in realtà era un rituale, non era semplicemente una bevanda. Bevanda maledetta, bevanda sempre segnata da una sorta di anatema. Chi beve assenzio cerca la fuga dal mondo, chi beve assenzio cerca uccisione della realtà. Chi beve assenzio è un pervertito, chi beve assenzio è un corrotto, chi beve assenzio è un bohemien, chi beve assenzio è lontano da una proba e corretta visione dell'esistenza. L'assenzio, chiamato anche fata verde per via del suo colore, è un distillato alcolico di erbe, tra le quali ovviamente le foglie e i fiori dell'assenzio, Artemisia absinthium, e l'anice stellato, quello che ritroviamo nella sambuca. L'Assenzio è principalmente noto per il velo leggendario di mistero che gli aleggia intorno, ma anche perché fu molto di moda in Francia nel periodo del romanticismo tra gli artisti e scrittori fino alla sua proibizione nel 1915. Si diceva infatti che gli artisti dell'epoca fossero come drogati dall'Assenzio, creando opere che se fossero stati lucidi non avrebbero mai potuto pensare. Probabilmente il fascino dell'Assenzio e la nascita delle leggende che lo circondano sono dovuti al fatto che nel 1915 la vendita fu definitivamente proibita, ma la messa al bando dell'Assenzio non ha ucciso il suo mito, al contrario, l'ha alimentato. È chiaro che oggi esiste un'infinità di paradisi artificiali massificati, condivisi, giustamente e lecitamente deprecati, che sanno di fuga di massa verso mondi paralleli. Beh, mondi paralleli non permettono l'affollamento, non permettono il turismo di massa, non permettono la condivisione delle folle. I mondi paralleli permettono accessi discreti, accessi in piccoli gruppi, accessi singolari, accessi in 2-3 persone per volta, non più al massimo, perché sono possibilità di avere degli scorci non usuali sulla realtà. Non a caso i poeti maledetti, i decadenti, i simbolisti ricorrevano comunque a una poetica infarcita di sostanze che permettessero l'uscita dal mondo. E i mondi immaginari, perlomeno reali, ai quali si poteva accedere, furono celebrati da un'infinità di poesia, di citazioni letterarie, che via via vi daremo nel corso di questa trasmissione. Ma quello che mi piacerebbe capire è la percezione che si ha oggi in un mondo in cui l'uscita dal mondo viene assimilata a qualcosa di, giustamente, ripeto, deleterio, fastidioso, ma soprattutto negativo per la propria salute, per la propria integrità, per la compattezza dell'ordine sociale. L'Assenzio, secondo me, non ha nulla a che fare con le droghe o con l'istigazione a drogarsi, almeno come viene oggi percepito. Esiste un'infinità, ho scoperto, di bar dedicati, locali dedicati a degustazione dell'Assenzio, a questa ritualità che poi si passa mezz'ora per farsi un bicchierino di roba che è molto meno alcolica di un'infinità di altre bevande di cui si fa un uso molto molto molto diffuso e per nulla deprecato. Ma esiste soprattutto, ho fatto una ricerca secondo il mio punto di vista, una diffusissima pubblicistica online. Nessuno va su YouTube e digita Assenzio, Fata Verde, qualcosa del genere, e troverà un'infinità di persone che descrivono, raccontano, immaginano, assemblano idee, pensieri e visioni attorno all'Assenzio. Questo è un cucchiaio per Assenzio, serve da appoggiare sul bicchiere in questa maniera per poi appoggiare sopra la zolletta. Va allungato con acqua veramente ghiacciata e l'acqua gocciolando a lungo andare lo zucchero si scioglie definitivamente. Dare una girata, il risultato è un colore assolutamente diverso da quello che avevate ottenuto prima. Assomiglia più al sapone quello per i piedi. 800240024 è la maniera per cominciare a dare qualche testimonianza o sollevare qualche curiosità rispetto all'Assenzio. Ripeto, sto parlando di qualcosa che sembrava ormai datato, lontano dalla nostra contemporaneità, invece lentamente sta emergendo come una delle tante possibilità lecite consentite dalla legge di uscire dal mondo, di avere un aiuto sostanziale per abbattere alcune barriere, alcune reticenze, alcuni fastidi del nostro tedio quotidiano che ci impediscono di vedere con luce ciò che si cela al di là dell'aspetto tangibile della nostra realtà. Ripeto, 800240024, conoscete la Fata Verde? Cos'è per voi la Fata Verde? E passo invece al primo dei nostri ospiti. Ho messo insieme un po' di persone che rappresentano la punta più avanzata dell'attenzione rispetto a questa riemergente possibilità. Alex Panigata, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, un saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze. Ecco, tu hai scritto una storia dell'Assenzio, la Fata Verde, editore stampa alternativa. Esatto. Ecco, ci dai una possibilità in più rispetto a quello che abbiamo accennato per farci capire i punti di contatto con questa bevanda che sembrava segnare un momento letterario, poetico e trasgressivo ben preciso, e invece l'uso contemporaneo che se ne fa in maniera diffusa? Certo, beh, innanzitutto lei è stato già esaustivo prima, quando ha un po', diciamo, aperto l'argomento. E la trasgressione purtroppo attira sempre, e diciamo che l'assenzio anche ai giorni d'oggi sta tornando, purtroppo, dico purtroppo perché comunque molti giovani si avvicinano all'assenzio credendola ancora la famosa droga dei poeti maledetti, eccetera, eccetera. Nulla di più falso, mi dispiace deludere un po' tutti gli ascoltatori e magari lei compreso, ma come diceva giustamente prima, droga e assenza sono due cose. Ecco, diciamolo diverse. Subito, non stiamo qui a fare la pubblicità di una droga, sennò verrebbero ad arrestarci. Ecco, io le faccio un esempio, far capire lo stato d'animo che lei sta cercando di sollevare. Ieri sera mi hanno invitato degli amici, dice vieni in una fumeria a fumare il narghilè. Dico, guarda, io non fumo più da almeno 20 anni. Dico, ma ci arrestano, che è questa cosa qui? No, vieni. Io sono andato dietro Campo dei Fiori, c'è un luogo meraviglioso, sembra una ricostruzione di tutta l'immaginario orientaleggiante, le turcherie di fine 800 in cui sono tappeti, e ci sono questi grandi narghilè dove dentro non c'è niente, c'è succo di mela, tè verde, cose del genere. Però io vedevo questi signori, ragazzi soprattutto, che fumavano e uscivano con l'espressione dei fumatori d'oppio dei tempi di Baudelaire. Dicevano, ah, quanto mi prende. E mi veniva da ridere, davano tè verde e si fumava a torsoli di mela, cose del genere. Eppure era l'ambiente, la suggestione che li metteva in una meravigliosa uscita dal mondo che non usciva per niente ai loro giovani fisici. Placebo, ma questo succede anche nell'assenzio. Guardi, assensi veri, tra virgolette, e soprattutto in Italia ce ne sono ben pochi. Sì, dopo la farò parlare con un vero produttore di assenzio. E questo sarà un piacere, spero che poi mi mandi una bottiglia anche a casa, così posso dare un giudizio più concreto su questa produzione. Potrei parlargliene a lungo. E praticamente, cosa stavamo dicendo? Niente, che un po' c'è l'effetto placebo, nel senso che comunque, anche se al giorno d'oggi non è facile trovare, soprattutto in Italia, dei veri assensi, le testimonianze che comunque ho trovato, riscontrato, facendo comunque le mie ricerche, perché sono ben 6 mesi di ricerche per scrivere questo libricino, e comunque la gente si fa prendere dal gusto del proibito, la trasgressione, anche se in realtà stanno bevendo del colluttorio alcolico, perché purtroppo ultimamente nei locali si trova solo questo. Io ho sentito dire delle cose mostruose, tipo dopo che l'ho bevuto vedevo i muri di gomma, oh mio Dio, non capisco più niente, insomma sono fuori completamente. Però sai che devo dirle? Se le persone sono contente così, che in fondo fanno qualcosa che non nuoce al loro fisico e sono convinti di aver passato una serata di botta di vita, io li lascerei divertire. Ma lasciamoli credere, meglio questo che tante cioè, altre cose. Gli incidenti mortali il sabato sera si fanno perché la gente si beve la birra e si beve il vinaccio dentro il cartone, ecco, questo Bravissimo. Senta, vorrei però un attimo, se possibile, fare un passo indietro e capire quanto ha segnato la storia dell'umanità e della letteratura l'assenzio. Mi sembra che all'inizio fosse semplicemente una specie di medicina che si dava ai militari nella guerra in Algeria di metà dell'Ottocento per non fargli venire la dissenteria. Sì, assolutamente sì. È un'anticacarella, ecco, nasce così. Un'anticacarella, esatto. No, torniamo ancora un pochettino più indietro, perché addirittura l'assenzio, diciamo che è stato praticamente creato da un dottore, Pierre Ordinaire, che aveva creato un po' questo elisir medicamentoso che curava un po' tutti i malanni, no? Era un po' il classico toccasana. Poi cosa è successo? Evidentemente era proprio buono questo toccasana, perché i malati diventavano sempre più numerosi, cioè pur di andare a bersi questo elisir fantomatico. Poi è iniziata la produzione in scala nel 1800. Guardi, io ho delle pubblicità dell'inizio dell'Ottocento, sì, dove si dice ai bambini, per farli diventare belli, grassi e paffuti, dategli l'eroina. Incredibile. Allora, quando nacque, diciamo, questo tipo di sostanza, pensavano fosse un ricostituente per bambini, o come tale lo usavano. Esatto, purtroppo non è così, insomma. No, assolutamente. Poi appunto, diciamo che nel 1805 è nata la prima distilleria Pernod e Henri Louis Pernod ha, diciamo, preso questo elisir, che era semplicemente un medicamento, l'ha trasformato in un distillato ad alta produzione, e qui è nato un po' il suo mito. Il mito, soprattutto, come sappiamo, nasce dal momento che una cosa viene demonizzata. E quindi, che fu proibito, a un certo punto fu proibito, fu cancellato. Sì. Però dobbiamo qui ricostruire un attimo il periodo storico, dobbiamo tener conto che in quei periodi l'alcolismo era veramente ad alti livelli. E quindi lo Stato in sé ha cercato di fare comunque una campagna, una battaglia contro l'alcolismo. Dobbiamo anche pensare che ai tempi, come diceva lei, i più grandi artisti e scrittori bevevano assenzio e la gente, tra virgolette, normale, un po' per emularmi, beveva assenzio. Cioè in quel periodo praticamente addirittura le ore e l'ora che andava dalle 17 alle 19 veniva chiamata addirittura l'ora verde, era un po' l'antenato del nostro happy hour, cioè dalle 17 alle 19 si beveva solo ed esclusivamente assenza. Allora fermiamoci solo un istante, perché lei mi ha porto il destro in maniera meravigliosa per far parlare Laura. Laura, buongiorno. Buongiorno. Lei di cosa si fa? Io mi faccio al massimo di qualche spritz in Friuli. Guardi, quando sentite... Quindi è l'ora arancione per lei il pomeriggio. Per me è l'ora arancione. Comunque mi piace moltissimo la sua attenzione, ma al di là di quello mi ha colpito questa cosa che non conoscevo, peraltro, data la mia veneranda età. Cioè quanto? 69. Ah beh sì, ma ancora si può fare qualche bicchierino. Mi sono veneranda, ma dopo tutto quello che lei dice sui 55 anni, uno si sente venerando, no? A 69. Sì, sì. Vabbè, non credo che avvicini lo spettro del catetere se si prende un po' di assenso, stia tranquillo. No, lo so. Allora, no, dicevo, io non sono così sofisticata e vorrei riuscire a capire chi fa queste, chi si avvicina a questo, all'assenzio. E soprattutto lei vuol sapere che effetto fa. Anni. Sì, esatto, ma non è che lo proverò, perché non sono per i superalcolici e non so quanti gradi abbia. Allora guardi, le faccio rispondere immediatamente. Negli ultimi due minuti introduco l'ospite a sorpresa, poi avremo tempo per andare avanti. Fulvio Rogantin, buongiorno. Ciao Gianluca. Allora, Fulvio Rogantin è un informatico, genio dell'informatica, ma il suo vero lavoro, la sua vera passione è produrre assenso. Produce uno degli ultimi o dei pochi assensi di cui diceva l'ospite poco fa, fatto ancora con la formula originale. Cosa rischia la signora bere assenso di quello buono però? Non si rischia niente, poi non è così alcolico. Una bevanda è alcolica in sé, l'assenzio però poi tutto il metodo di cui parleremo, il metodo di Berlo lo rende una bevanda dissetante addirittura. Sì, perché si beve annacquato, diciamo la verità. Si beve molto annacquato, annacquato forse non è la parola corretta. Però si beve aggiungendo acqua con un rito di cui sicuramente parlerai. Fammi dire solo una cosa, perché sennò Panigada mi sgrida. Non è l'unico assenzio fatto tradizionale, ne esistono tanti. Però lo farò assaggiare anche a Panigada. Senti, ma il problema qual è? Che ci vuole molto tempo e molta attenzione per farlo secondo le regole? Ci vuole molto tempo. Il rito vuole che non è solo un rito, è la maniera di bere. Tu quanto ci metti per fare una partita di assenso, di tempo e attenzione? Quante erbe sono per farlo? Sono, l'assenso che produco io sono 12 erbe. 12 erbe che vengono prima fatte macerare nell'alcol, poi viene fatta una distillazione, una finta distillazione, poi altre erbe per colorarlo. Però processo. Ecco, quello commerciale lungo. Invece l'assenso commerciale, quello che c'è, quel bel verde smeraldo che si trova anche nei supermercati, con che fatto? C'è solo verde, c'è azzurro, c'è rosso, ci sono tutti i colori. La maggior parte sono coloranti, sono aromi, non sono solo verde, forse ci sarà qualche residuo di erba. Va bene, vi spiegheremo fra un istante, dopo l'informazione della borsa, di cosa si tratta, come si beve, come si usa, l'uso moderato che se ne può fare e soprattutto i suoi mirabolanti effetti, che sono come la fumeria di torsoli di mela che mi hanno fatto conoscere ieri sera. Tra un istante. Melog 2.0. In primavera Tipase è abitata dagli dei, e gli dei parlano nel sole e nell'odore degli assensi. il mare corazzato d'argento, il cielo di un blu crudo, le rovine coperte di fiori e grandi bolle di luce nell'ammasso di pietre. Dopo pochi passi, gli assenzi ci prendono alla gola. La loro lana grigia copre le rovine a perdita d'occhio. La loro essenza fermenta sotto il calore e dalla terra al sole sale. Su tutta la superficie della terra, un alcol generoso che fa vacillare il cielo. Andiamo incontro all'amore e al desiderio. Albert Camus. Certo, ascoltando la visione poetica dell'assenso da appunto Oscar Wilde, Albert Camus, ma potremmo citarvene un'infinità, passando appunto per tutti i decadenti, per tutti i simbolisti, passando per i maledetti e via dicendo, viene l'idea che probabilmente qualsiasi essere umano, entrando in contatto con questa misteriosa bevanda, possa avere delle aperture sull'universo dei simboli che è così nascosto alla visione stanca dell'uomo quotidiano. 800240024. In molti stanno scrivendo e stanno domandandomi quali siano gli effetti dell'assenso, immaginando che bevendo un bicchierino di assenso improvvisamente si apra un deserto davanti, si vedano cammellieri, si vedano fate verdi che danzano e via dicendo. Fulvio Rogantin, produttore di assenso, cosa c'è esattamente dentro l'assenso e qual è l'effetto che fa? Cioè, io lo so, ma non posso dirlo perché un conduttore non può esporsi. Cosa c'è? C'è una sostanza, allora c'è una sostanza che si chiama tuione, è una sostanza che nella tabella delle droghe, però ce n'è poca in definitiva, e ce n'era poca anche quella volta, quando non c'erano le tabelle delle droghe. È una droga il tuione? È un terpene, non sono un chimico, ma dovrebbe essere un terpene. Poi abbiamo un esperto, ce lo spiegherà bene. Che ha lo stesso disegno, fammi usare termini non tecnici, il disegno del THC, che è quello della marijuana. Quindi ecco, ha un punto di contatto con la marijuana. Un punto di contatto. Questo è, diciamo, la genealogia maledetta dell'assenzio. Ecco, che la gente non comincia ad andare in giro a fumare assenzio, a cercarlo per i prati, perché poi si attiva in alcol. Ah, ecco. Però, ripeto, la sostanza è quella che viene venduta di solito come sostanza psicotropa, per cui si dice l'assenzio ti sballa. In realtà ce n'è poco e ce n'è sempre stato poco. Esiste, per cui va controllato. Senti, com'è la legge in Italia? Cioè, tu rischi l'arresto per aver detto questa mattina che fabbrichi assenzio? No, non rischio l'arresto. In Italia, ma anche in Europa, c'è una legge particolare. Le proibizioni hanno avuto una storia strana, principalmente dovuta a motivi economici. Anche la ripresa dell'assenzio è strana. In Svizzera è tornato legale con un referendum addirittura. Hanno fatto un referendum hanno sull'assenzio? Fatto un referendum. Immagino qualcuno potrebbe proporre qualcuno che ha a che fare col colore verde per rilanciare il proprio brand, perché non vedrei altri motivi. Anzi, in Svizzera era una legge costituzionale che proibiva l'assenzio, e poi è stato trasformato. Quindi uno potrebbe passare il confine per andarsi a comprare l'assenzio. Ma come mai in Italia si vende tranquillamente, liberamente, allora? No, in Italia, in tutta Europa ormai si vende liberamente perché nell'88 è tornato legale. In Italia, in Europa, però in Italia esiste una legge dei tempi del fascismo in cui si dice che non si può chiamare assenzio, è innominabile l'assenzio. E tu come lo chiami, scusa? Quando... mi si chiama tutta una storia, mi si chiama Oblivion, come il tango di Astor Piazzolla. Ah, perché fa dimenticare? No, fa ballare, fa sognare, non lo so cosa fa, ma è nato, ha una storia strana, è nato da spettacolo teatrale per cui si parlava di tango e è rimasto quel nome. Senti, adesso finalmente abbiamo la persona che ci può togliere ogni dubbio rispetto all'aspetto realmente chimicamente pericoloso, tra virgolette, dell'assenzio. Andrea Giomo è docente di analisi sensoriali all'Università Politecnica delle Marche. Andrea Giomo, buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, ci spiega esattamente dentro l'assenzio cosa c'è, quale effetto fa e quali sono le similitudini con quelle che vengono comunemente chiamate droghe? Perché tutti ci chiamano spaventati, fate pubblicità a una droga. Non mi sembra si tratti di questo. Direi di no. Diciamo che l'interpretazione così deviante nasce nel 1869, da un lavoro pubblicato su Lancet da parte di un gruppo di studiosi dedicato all'assenzio all'alcol. Questi trovavano 260 mg chilo di tuglione nei liquori dell'epoca. Per fortuna che nel 1999 Strang e colleghi ripetono l'esperienza, ma non trovano queste quantità. E alla fine Lackenmeier e colleghi nel 2006 riescono ad analizzare dei vecchi liquori a base di assenzio e ne trovano al massimo 3,5 mg chilo. Che si trova, mi sembra, in tanti amari, aperitivi e cose del genere. Sì, sì, queste sono le dosi, diciamo vanno da 0,6 a 3,5, poi a seconda della forma di tuione, perché c'è l'alfa tuione che è quello più attivo, diciamo, e il beta tuione che è quello meno attivo. Rogantin, tu che tuione usi? Non so, devo chiederglielo. Ah, ecco. Ecco. Diciamo che il limite comunque di legge sono 35 mg chilo, per cui siamo bene al di sotto. Quindi uno dovrebbe bersene degli ettolitri per avere una sostanza, una quantità di tuglione, esatto, necessaria a essere considerato, esatto, un bevitore di droga. Ecco. Ma non solo, la somiglianza con il tetraidrocannabinolo, il famoso THC, è completamente sbagliata. Poi parlarne in questi termini veramente fa passare la voglia, fa immaginare una medicina o qualcosa, un farmaco. Infatti, però esattamente qual è l'effetto che fa, professore? Perché tutti me lo chiedono, io onestamente l'ho provato parecchio, perché la passione della novità, e devo dire, bevuto da solo è un grande stimolatore di immaginario. E c'ha il vantaggio, lo dico sulla mia esperienza, di non lasciare effetti collaterali. Lo bevi, è piacevole, uno degusta gli aromi con il cucchiaino, lo zuccherino, l'acqua ghiacciata e via dicendo, lì per lì ha una piacevolezza, presenta una botta fortissima di calore, poi quando passa tutto torna normale, non c'è mal di testa o altro. Bevuto in compagnia, poi è una cosa che alla radio non si può dire nel suo particolare, però devo dire ha un effetto impactogeno molto forte. Corrisponde a realtà questo o fa parte della suggestione? Ma diciamo che il principio attivo del liquore o del vermut di assenzio, che è il tuglione, è un serotoninico antagonista, per cui tutto il più può far aumentare l'appetito. Ecco il consiglio di berlo magari come aperitivo. L'odore del tuglione lo possiamo, volendo, sentire in un vecchio farmaco che si chiamava Vix Vaporub. Ah, il Vix! Perché lo contiene come eccipiente, ma non solo, anche gli aniciati, cioè tutti i liquori contenenti anetolo, il Mistrà, eccetera, contengono tuione. La Sambuca praticamente. Esatto. Quindi diciamo, corrisponde a quella cremina profumata che la mia generazione di cinquantenni ben conosce, che le mamme ci spalmavano sul petto, andavamo al raffreddore e ci mettevano sopra il pannicello caldo e ci faceva tanto bene. Sentiamo Aldo. Aldo, buongiorno. Buongiorno Gianluca, che piacere parlarle. Dunque, prima cosa, io ho bevuto assenzio più volte e devo ammettere che mi sono ubriacato, niente di più. Ah, proprio per ubriacarsi bisogna berne tanto, eh? Sì, beh, insomma, due o tre bicchieri a voglia. Ma ubriacarsi con tre bicchieri d'assenzio, guarda, è veramente difficile. Secondo me, poco corretto. Guardi, ne ho una bottiglia nella credenza che è smezzata dall'altra sera. Ora poi magari un bicchiere. Guardi, poi glielo confermano i miei ospiti. Se ne mette un po' in un bicchierino, poi ci si mette l'acqua, lo zuccherino. Certo. Ci vuole mezz'ora prima di berzene un po'. Lei non, esatto, è solo bere a garganella come se fosse acqua minerale. Esatto, si mette lo zuccherino, anche il cucchiaino speciale sul quale si appoggia lo zucchero. Un cucchiaino traforato, arabescato, bellissimo. Sì, arabescato, stupendo. Quello che voglio, a parte il fatto che mille superalcolici danno effetti anche diciamo sulla mente differenti, se lei beve la tequila sa benissimo che eccita molto di più rispetto a una grappa e poi lascia il mal di testa invece esatto. A parte questo e a parte gli effetti rituali che sono e sono lì, in quello risiede la potenza dell'assenza, cioè il berlo come tutte, come lei ha appena detto, insomma, volevo precisare questo. L'assenzio si afferma, appunto, passa da medicamento a prodotto da banco diffuso in un periodo in cui in Europa non c'è più vino. Cioè a causa della filossera, della peste della vite, Non c'è più produzione di vino, questo è quello che risulta a me. Quindi andavano per campi a prendersi il tuglione e farsi la sedia. E piano piano si afferma come prodotto da osteria, da banco. La cattiva stampa poi dell'assenzio, diciamo, che culminò in una grandiosa azione di lobbying per proibirlo, non era legata al desiderio di limitare gli effetti nocivi dell'alcol, quanto di togliere il metadone e riportare sulle tavole il vino che nel frattempo era stato ricreato a partire da interessante, americani. Interessante. Sentiamo Alex Panigada, lo storico dell'assenzio, autore di Storia dell'assenzio. Nelle sue ricerche ha trovato questo punto che ci sottolinea l'ascoltatore? Assolutamente sì. Guardi, quindi è formatissimo. Complimenti per aver creato veramente un'equipe di gente veramente in gamba. No, finalmente... questo ha telefonato per caso, è come tutte le persone che chiamano. Guardi, fantastico, perché anche comunque il professore finalmente ha specificato veramente che cos'è il tuglione, se ne è fatto un gran parlare. Quindi è una trasmissione di servizio questa. Ma guardi, io sono felicissimo, perché finalmente... No, e mi collego a quello che stava dicendo appunto l'ascoltatore di prima. È vero, il vino non ce n'era e lo Stato ha cercato in tutti i modi di mettere al bando l'assenzio, proprio perché tutti consumavano assenzio e i produttori di vino erano decisamente ostacolati da tutto questo. E quindi bisognava assolutamente trovare il modo per eliminare l'assenzio e far tornare sul banco il buon vino. Silvio, sentiamo un attimo Silvio, prima della pausa. Silvio, buongiorno, velocissimo. Sì, buongiorno, grazie. Perché non dovrei parlare d'assenzio? Ma guardi, io mi riferisco ad articoli letti su riviste che hanno riportato degli studi fatti nell'Ottocento sul consumo di questa bevanda, che era utilizzata nei bar proprio per così trovare un momento di allegria. Però ma lei è passato mai per le osterie del nord-est d'Italia? Sì, già certo, da quest'ora. Lo frequento, ecco. Bene, lo frequento da 30 anni, il bicchiere, l'alcol lì va a fiumi. Però il discorso è che l'alcol crea danni al fegato e questa sostanza a quanto pare li produce al cervello. Non lo dico io, ma lo dicono i medici che nell'Ottocento hanno fatto degli studi, io ho letto articoli su riviste scientifiche e questo è stato riportato. Sì, esiste questa ombra nera sull'assenzio che contenga sostanze nocive al cervello. Noi che siamo abituati a sapere che c'è un'infinità di azioni che fanno malissimo al cervello, alle diottrie e via dicendo, sospendiamo il giudizio alle informazioni per il traffico e poi i nostri esperti, visto che abbiamo un professore universitario che questo ha studiato, sapremo quanto fa male al cervello l'assenzio. Ma noi che siamo nati nel 54 e sono 55 anni che guardiamo televisione, sappiamo che c'è anche di peggio. Melog 2.0. Porto questo prodigio alle labbra. Mordo il bicchiere e succhio il suo contenuto. I pezzi di cristallo penetrano la mia lingua. Essi mi trafiggono e mi bruciano come il nutrimento del mio senso liquido caldo, salato, il cui bisogno mi fa piangere. Giuro di voler morire. Mentre trascinate le vostre vite, io vado a bere. Don LaRue. Beh, questa cantante che parla del suggere l'assenzio in maniera estremamente carnale, quasi assimilandolo a un atto di passione, fa venire ancora di più il desiderio di consumare questa bevanda, di cui daremo anche i limiti del possibile. Serena, lei accade qualcosa del genere? Buongiorno Gianluca, io ho avuto l'onore di assaggiarlo per la prima volta preparato dalle mani del signor Rogantin a una delle sue presentazioni. Beh, adesso 22 anni lei. 22, sì. Rogantin vai a pescare negli asili, quindi. No, Rogantin stava alla sua presentazione, per cui io ho visto il banchetto, mi sono avvicinata. E l'ha assaggiato? Insomma, ascolto abbastanza spesso anche la trasmissione, ho detto vediamo un po' che cos'è. Proviamo, io rimarco il fatto che sono praticamente astemia, cioè non bevo praticamente nulla di alcolico, per cui quel bicchierino là, diciamo, quel giorno tornando a casa ha cominciato a produrre effetti strani, ovvero ho abbandonato la lingua italiana, ho cominciato a parlare in inglese, vabbè. Che non ha mai studiato anche in vita sua? No, ho studiato, anche approfonditamente, però insomma era come un'interruzione della parte del cervello italiano a favore di quella inglese. No, di solito gli indemoniati parlano aramaico. Sì, sì, esatto, no, vabbè, non mi considero. Quindi le ha fatto questo effetto, ha stimolato la sua creatività in lingua inglese. Esatto, poi insomma ho cominciato anche a dire cose non proprio ripetibili, ma per fortuna la lingua non è compresa. E a chi le diceva queste cose? A chi mi stava accanto in genere, ma... E lui era tutto contento, immagino. Sì, sì, esattamente, vabbè, adesso... assolutamente sì. Beh, quindi ha avuto l'effetto che tutti qua, ci giravamo intorno, ma poi alla fine non dicevamo. Qui. Esatto, non è finita qui, anche perché poi... No, non vogliamo sapere com'è finita, perché siamo in fascia semiprotetta. No, assolutamente non parlerei mai di certe cose. È successo che poi la mattina, se ogni tanto la sera bevo qualche bicchiere, trovo sul tavolo manoscritti di inglese, ovvero comincio a produrre proprio a livello... A scrittura automatica addirittura. Ma quante bottiglie ce n'è per casa, scusi? No, è appena finita la prima che ho preso una settimana fa. Quindi, beh, una bottiglia a settimana mi sembra un buon consumo, io ci starei un po' attenta. Allora, andiamo al punto che avevamo sollevato. Professore Andrea Giommo, docente di analisi sensoriali all'Università Politecnica delle Marche, su questa sostanza dannosa che distruggerebbe il cervello e su questi effetti mirabolanti della nostra ascoltatrice. I terpeni, almeno fino a quello che si sa oggi, ancora danni sul cervello non li fanno. E piuttosto hanno delle altre attività che proprio in questi giorni, in questo periodo stiamo studiando, che sono molto particolari. Io li chiamo aromi ipnotici, perché entrano in profondo contatto proprio con... diciamo la parte ancestrale del cervello, attraverso diciamo i due canali che collegano la membrana olfattiva con il rachide, e qui hanno effetti molto interessanti sul sistema limbico. Quindi la creatività dei poeti simbolisti. Baudelaire che dice la natura è una foresta di simboli, bisogna soltanto leggerli, realmente corrispondeva a delle aperture date a questa esatto. Particolarità dell'assenzio. Esatto, stiamo scoprendo, ma non solo nell'assenzio, in tutti i prodotti della natura, che i terpeni sono l'alfabeto, cioè le lettere con le quali il vegetale comunica con noi, in maniera però molto profonda, cioè supera il conscio. Entriamo nel sistema ortosimpatico e parasimpatico. Quindi noi ci abbiamo scherzato, ci abbiamo allacciato facezze, ma la creatività improvvisa della nostra ascoltatrice fa sì che si sia come abbassata una saracinesca che bloccava alcune sue attività e è diventata particolarmente attiva nel settore suo di produzione. Quello è anche un effetto grosso dell'etanolo, cioè l'etanolo stacca, diciamo, l'emisfero sinistro, l'emisfero della logica, e attiva quello destro, perché va ad agire quasi a livello del ponticello che li collega. E quindi però... mi perdoni il termine, anche l'effetto smutandante dell'assenso è dato da questa caduta della tenuta logica, della tenuta etica? Sicuramente, però poi il terpene comunque ha un grosso effetto inconscio, anche in concentrazioni molto piccole, perché a livello olfattivo non importa che ci siano grosse concentrazioni, ne bastano piccole. Ecco, abbiamo al telefono Francesco Infarinato, ci ha chiamato, che è un cantante musicista, fa parte di un gruppo che si chiama proprio Silenzio Assenso. Francesco Infarinato, buongiorno. Buongiorno a te. Come vi è venuto in mente a voi di fare un gruppo musicale basato sull'assenso? Beh, vi fate e poi suonate, come funziona? Sì, allora Silenzio Assenso è un ensemble di quattro musicisti, al basso c'è Luca Tintino, poi c'è un sassofonista che è Gabriele Capocchi e alla tromba è Bruno Talone. Il nome è frutto di una suggestione che ripropone appunto l'esperienza percettiva di cui l'assenso è sempre stato un simbolo. Nell'epoca dei lounge bar, noi Silenzio Assenso da un lato abbiamo centrato la nostra ricerca di musica originale coniugando l'elettronica, lounge, chill out, nuove sonorità, e dall'altro lato abbiamo voluto intendere i concerti come vere e proprie performance. Sì, beh, adesso questo vorrei solo capire, vi bevete l'assenso e componete, per voi ha un effetto reale questa sostanza nella produzione artistica? In realtà... durante la produzione artistica è un processo molto lungo, la produzione artistica non è qualcosa sempre di estemporaneo. Ma c'entra mai l'assenzio? C'entra mai l'assenzio? Noi diciamo amiamo bere l'assenzio, però non è questa la chiave di volta della produzione. Diciamo, per noi l'assenzio è un po' un pretesto, perché oggi l'alcol è consumo. Quindi avete individuato un trend comunque? Sì, per noi sì. Per noi è il pretesto di un'esperienza comunque sensoriale aggregante l'assenzio. Anche perché durante i nostri concerti proiettiamo video art che appunto riprende manifesti della, di fine secolo. Quindi tutte le assimilazioni che ha avuto la musica leggera, la musica rock, con le uscite violente dal mondo, violente anche in maniera irreversibile, avete trovato una forma con un suo percorso storico accettabile per suggerire un momento di libertà, un momento di accesso. Senti, Fulvio Rogantin, proprio perché siamo in conclusione, ci credono in molti, dici le diverse maniere per confezionare l'assenso, che molti parlano di un assenso fatto con il fuoco, e non so bene cosa si tratta. Allora, esiste un'unica maniera di bere l'assenso, ed esistono tante maniere alternative. La maniera tipica è quella francese: si mette una parte di assenzio nel bicchiere, si mette il cucchiaino, si appoggia una zolletta di zucchero e si fa cadere goccia a goccia dell'acqua molto fredda. Ci potrebbero essere 4 parti, 5 parti di acqua, però dipende, cioè ci si accorge quando l'assenzio è pronto, quando si è la cosiddetta louche, cioè l'assenzio cambia colore. Diventa opaco. Verde iniziale diventa opaco, diventa un bianco nebbioso. È la fata, ecco, che appare in quel momento. È la fata che appare. Poi ti racconteranno che si beve a Praga, è una cosa abbastanza moderna, anche perché fa effetto, si dà fuoco allo zucchero quando caramella, si spegne con l'acqua. Però non è la maniera di berlo. Ma quello sa tanto, di gita aziendale si va a Praga e si beve l'assenzio con la fiammella, diciamo, no. Una cosa sì, moderna e fighetta. Grazie Fulvio Rogantin, grazie a tutti i nostri ospiti, grazie agli ascoltatori, e mi direte grazie lunedì quelli che avranno seguito appunto i nostri consigli, che sono sempre consigli deleteri, consigli da non seguire se si è brave persone. Ringrazio Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti, che non sono brave persone. A lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.